sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Rieccoci in diretta, buonasera ancora, buonasera da Agostino Spolaore, ma soprattutto buonasera anche dal mio fedele compagno, ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sempre in diretta, sempre qui con i nostri live, anche quest'oggi, giovedì 8 marzo 2012, la festa delle donne, come dicevo poc'anzi, e quindi ben sintonizzati anche a voi donne all'ascolto di questa emittente. Vi ricordo le nostre frequenze, 88 794 e 600 MHz in modulazione di frequenza, i nostri numeri di quello telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms, se volete interagire con i nostri artisti di questa sera, vi ricordo è il 346 23 20 033. Le nostre pagine su Facebook semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico che verrà dopo di noi, dopo di questa trasmissione alle 22:30 con la sua classifica di musica rock, appuntamento quindi da non perdere con Alberto Prisco. Vi ricordo inoltre il nostro sito è www.bluradioveneto.it, lì potete ascoltarci tranquillamente in streaming 24 ore su 24, ma potete anche leggere tutte le informazioni inerenti alla nostra regione specialmente, ma anche varie recensioni sugli artisti eccetera eccetera, notizie e quant'altro. Allora, questa sera è una serata consueta del live, questa sera abbiamo un duo e si chiama A Bassa Voce. Ciao ragazzi. Buonasera. Buonasera. E sono per l'appunto Claudia Valtinoni e Tony Moretti. Allora, benvenuti a Blu Radio Veneto. Grazie. Fatto un buon viaggio, beh, vicino. Vicino. Abbiamo anche un altro ospite graditissimo, cioè il produttore di questo disco, che è Vannuccio Zannella. Ciao Vannuccio. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Vannuccio. Ben trovato anche a te, ovviamente. Grazie. Insomma. Bene, qualcuno aveva scritto, perché a bassa voce? C'è un motivo. Qualcuno ha definito la morbidezza, nasce dalla morbidezza questa accoppiata voce e basso. Che basso, ragazzi, un basso meraviglioso, nuovo, tra parentesi, vero? Tony, hai comprato di recente. Allora, l'idea di questo connubio, voce e basso. In realtà è solo un gioco di parole. Ah, è solo un gioco di parole. nel senso che basso, quindi il mio strumento. Il tuo strumento. È la voce, quindi è venuto fuori... A basso voce non suonava bene. Non suonava bene a basso voce. Allora l'ho femminilizzato dicendo a bassa voce. Esattamente. C'è qualcosa che fischia forse. Sì, c'è qualche... Adesso abbassiamo un pelo le cuffie, vediamo se è questo. Vai Tony. E poi in realtà riprende un po' molto quello che è il nostro modo di vedere la musica. E cioè a bassa voce, cioè non gridata, non forzata, cercando di trovare più nel dettaglio, nel silenzio, nel suonato soffusamente il modo nostro per comunicare. Hai detto una cosa giusta, nel dettaglio, nel silenzio. Cosa ne pensi, Vannuccio? Nel dettaglio, nel silenzio, suonare un basso con la voce femminile non è una cosa semplice, secondo me, è abbastanza complicata. Non è assolutamente semplice e soprattutto non è scontato. Non è scontato il risultato. Nel loro caso sono stati bravissimi, devo dire il connubio è riuscito molto bene, Tony ha una carriera. Tony ha una carriera strepitosa alle spalle, per cui insomma, quindi, non gli si può dire questo, niente. Questo Claudia. La sì, ma non l'abbiamo ancora detto. Claudia invece è giovane, ma ha in nuce un talento strepitoso che quindi molto probabilmente supererà anche Tony quando sarà il momento adatto. Mi pare giusto. Ecco. Comunque, anche per omaggiare appunto le donne questa sera, mi sembra doveroso. No, la cosa bella del loro progetto è che pur essendo, sai, delle cover. Certo. Quando parli di cover uno comincia subito a dire... A tirare il naso. Sai... È più bella la cosa originale, eccetera. Nel loro caso era molto bella l'originalità con cui le hanno presentate. Intanto questa veste è molto particolare, quindi solo basso e voce. E anche come poi sono state interpretate. Era quello che diceva Tony. Non c'era niente, anche dei brani, diciamo, relativamente aggressivi. Uh-huh. Sono riusciti ad addolcirli, sono riusciti a farli loro. Che è poi l'essenza di far bene una cover. Certo, però il discorso non è usuale il basso e la voce, è usuale la chitarra e la voce. Tucker Patti mi viene in mente, rilanciata la grande con un pezzo di Cyndi Lauper. Però l'usualità esiste con la chitarra elettrica, la chitarra acustica e la voce, ma il basso elettrico e la voce non è una cosa che si sente spesso, Tony. È un'idea abbastanza innovativa, un'idea, possiamo dire, coraggiosa, tra virgolette. È un'idea comunque già, anche se non molto, comunque già esistente. Sì, sono d'accordo, ma in Italia non è che sia molto così frequente. In ogni caso è l'essenza della musica, perché la voce e soprattutto... è che è uno strumento, assolutamente. Ed è, diciamo, va a suonare su frequenze acute. E il basso, invece, usa le fondamentali, quindi le note più basse. In realtà c'è tutto, come Bach insegna con le invenzioni a due voci, cioè bastano anche due voci e si sente tutto. Poi nel caso mio io utilizzo anche bicordi, accordi, quindi cose un po' più armoniche. Ma in realtà l'essenza della musica, quando Verdi scriveva le opere, scriveva il canto e la linea di basso. Poi c'erano gli arrangiatori, per così dire, termine moderno, ma insomma i trascrittori, che riempivano la parte centrale. Certo, e certo. Quindi l'essenza c'è tutta. È scarnificata, se così si può dire, c'è proprio l'essenza, però... Banuccio mi insegna: un gruppo rock senza il basso non è un gruppo rock, assolutamente. Assolutamente, assolutamente. No. Non esiste il gruppo rock senza il basso. Basso è fondamentale. Ma neanche nella musica classica, certo. Le composizioni, appunto, dove il basso continuo era fondamentale. Insomma, ci sarà un buon motivo, no? Chiaro, chiaro. Vogliamo ascoltare qualcosa? Sì, esatto. Apriamo subito le danze, come si suol dire, con qualcosa dal disco, poi li ascolteremo dal vivo. Volete suonare subito dal vivo? No, metti pure un brano. Vabbè. Allora, avete scelto My Favorite Things. Come mai questa scelta? Perché ci piace. Bellissima risposta. Allora, ci ascoltiamo allora quindi gli a bassa voce con My Favorite Things. Drops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, white geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. lollipops and roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels, Dobes and sleigh bells and schnitzels with noodles, white geese that fly with a moon on the wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, abbiamo sentito questo pezzo. Chiaramente c'è la voce di Claudia, che si sente adesso la voce di Claudia, si sente anche dal vivo, quindi qualcosa dirà sicuramente. E parlavamo prima, microfono spento, anche con Agostino e con Vannuccio, parlavamo del discorso dell'inserimento della voce, che non hai avuto nessuna difficoltà. Prima Kito ha deciso sì, però chiaramente ci sono state degli aggiustamenti, vero Tony? Sì, beh, esatto. Sì, vieni avanti. Vado avanti. Okay, sì, ok. Beh, diciamo che quando mi ha fatto questa proposta, non è che inizialmente ho deciso sì, di subito partire. In realtà ero un pochino spaventata, perché comunque fino a quel momento avevo avuto esperienze completamente diverse, non ero da sola, diciamo, con un altro strumento sola. Sì, ho capito. La voce in questo modo è praticamente nuda, perché certo, avevo avuto esperienze in gruppi con più strumenti e magari anche affiancata ad altre voci. Ad altre voci, certo. Quindi ecco, questo mi spaventava, perché personalmente sono abbastanza timida. E però ci siamo subito trovati d'accordo anche per la scelta del repertorio. Il repertorio è stato difficile scegliere un repertorio come questo? No. No, perché in realtà eravamo d'accordo quasi sempre, in pratica. Uno proponeva, a volte mi proponevo delle cose che lui aveva già in mente, e viceversa, per cui sì, per quello non c'è nessun brano che mi piaccia un po' meno rispetto, sì, no, la scaletta sì, preordinata, progettata, era questa, quindi siete andati avanti pian così, pianino, aggiungendo sempre di volta in volta, ma sono tutti brani su cui eravamo d'accordo sempre. È un produttore, Vannuccio, che sente un genere di questo, questa scaletta, cosa ne pensa immediatamente? Cosa ne hai pensato? Ma io potevo anche pensarne relativamente poco, come faccio sempre. Ma sei un perfezionista, è un professionista. Quindi. Nel senso che l'artista è l'artista che deve proporre. Dopo tu puoi dargli dei suggerimenti, puoi dare delle dritte, puoi dare delle... Però lui fa un po' di testa sua. Devono fare come vogliono. Sai, dopo, nel loro caso era un po' più complicato, comunque quello discorso, perché giustamente Tony ha una carriera ormai decennale e insistiamo. Ma dobbiamo sapere che carriera ha avuto Tony. Dopo magari ne parliamo un po'. E per cui insomma c'era poco da dire. Al massimo si poteva dare qualche suggerimento dopo, come avere un prodotto finito. Ma Mentre nel caso di persone che magari per la prima volta producono un disco, fanno qualcosa, ultimamente c'è molto da lavorare. C'è molto da lavorare, perché secondo me molti di queste persone vanno veramente allo sbaraglio e non sanno neppure cosa stanno facendo. Vabbè, comunque. Però nel caso di Tony, visto che il primo disco di Tony l'hai prodotto te. Tanti anni fa. Non diciamo neanche questo. No, ma Tony, tra l'altro, a parte, cioè, mi vedo coinvolto comunque in questa questo tempo che è passato, certo. Per cui siamo nella serie Mal Comune Mezzo Gabbio. Dico sì, tra l'altro è stato un disco veramente veramente simpatico. Il primissimo disco di Tony era molto più jazzato, diciamo. E vedeva anche dei personaggi non indifferenti, Ruggero Robin alla chitarra, vedeva Emilio Veneziano alla batteria, quindi anche degli strumentisti che hanno un certo peso. Un disco molto bello, anche a tanti anni di distanza lo trovo ancora un bellissimo disco, ma comunque nel frattempo Tony ha avuto modo anche di sviluppare tante parliamo un momento della carriera di Tony velocemente. Vabbè, dai, cambiare discorso. No, così per sapere le tue tappe fondamentali. Le mie tappe fondamentali. Cioè di crescita musicale, sì. Chiaramente. Beh, da lì, da questo primo disco, che era un jazz anche abbastanza elettrico, ho continuato per un po' in questo filone utilizzando spesso tastiere, sequenze. Suonavi, oltre al basso, cosa suonavi? Oltre al basso di solito facevo la programmazione delle tastiere. Ah, ok, ho capito. E scrivevo i brani. Sì, benissimo. E poi però a un certo punto ho deciso di cambiare. Quasi completamente, e per almeno 10 anni quasi il basso non l'ho più suonato, ho suonato solo il contrabbasso. Ah, però. E infatti il mio terzo CD è stato completamente acustico, quindi contrabbasso, piano, chitarra, batteria e sax, senza nessuna tastiera, nessuna sovraincisione, tutto. Nessuna elettronica, nulla. Assolutamente. C'era solo l'amplificatore della chitarra. Beh, chiaro, quello doveva esserci. E poi da lì, diciamo che quello che è stato il passo successivo è stato l'inserimento degli strumenti ad arco. È un lavoro che mi è piaciuto molto e che sto ancora seguendo. E quindi il successivo è stato anche con un quartetto d'archi. Quindi diverse tappe verso, sempre più verso l'orchestrale. Verso l'orchestrale, sì. E a un certo punto ho detto basta, non ne posso più. E quindi ho fatto il passo opposto. Sei ritornato cioè questo. Che è proprio la sintesi, cioè basso e voce. Anche se la voce è un'orchestra in piccolo, sì. Possiamo dire questo, certo, Tony, sì. Assolutamente un'orchestra. Assolutamente, e quindi sei ritornato indirettamente all'orchestra. Insomma. Certo. Beh, la voce, sai, ha il grosso vantaggio di essere più espressiva di qualsiasi strumento. Sì. Perfettamente e quindi, d'accordo. E quindi anche una semplice armonia che viene, melodia in questo caso, creata dalla voce e riesce a riempire tutti gli spazi che servono. Esatto, riesce a riempire tutti gli spazi che servono. Fin dei conti ci riescono anche quando cantano a cappella. Certo. Poi. E ci riusciva anche Demetrio, quindi insomma. Appunto. Non c'era. Stai parlando di un mostro sacro. Quando penso alla voce, penso a Demetrio, Vanuccio, c'è poco da fare. Sì, insomma, è per antonomasia. È per antonomasia, esattamente. Non c'è pericolo. Cosa dici Agostino? Io dico che suoniamo, sì, certo. Ragazzi, suoniamo. Suonano. Sì, suonano chiaramente lo. Sì, sì, vai. Cosa vai, ci fate ascoltare dal vivo adesso? Non lo so. Non lo sa. Sorpresa. Questa è un'altra caratteristica nostra. Mm-hmm. Quando noi andiamo a suonare, noi abbiamo una settantina di brani in repertorio che suoniamo però quasi a memoria, diciamo. Incredibile, bellissimo. E quando partiamo non sappiamo mai cosa succede, nel senso che forse sappiamo il primo brano, ma subito dopo, perché dipende anche da chi abbiamo davanti. E quindi cerchiamo anche la comunicazione. Sicuramente è importante dare una comunicazione e ovviamente è importante, se c'è la disponibilità da parte del pubblico, di riceverla. Allora la prima cosa che ci interessa è trovare questo punto di incontro. È trovato questo, allora poi la scaletta, cioè la serie di brani, andrà verso la direzione della massima comunicazione oppure della provocazione, dipende anche dalla serata. Se l'avessi saputo prima ti avrei messo Patrizia davanti a te, che almeno avevi una bella visione, c'hai Maurizio. ma è lì dietro, la vedo. Ringraziamo a proposito Patrizia che sta facendo le foto. E quindi forse facciamo... Nature Boy, perché spesso iniziamo con questa, però una cosa divertente è che siccome io di solito faccio sempre l'introduzione dei brani, Non dico mai a lei cosa faccio. Ah, ecco. Lei bello. Non sa mai. Io finché finiamo un brano ho pensato a quello che faremo dopo. Ma lei non lo sa mai. Mai. Stasera è una cosa diversa. Sì. Gli ho detto già il primo titolo, quindi è già avvantaggiato. Ma è solo perché siamo in radio. Ok, ok, ok. Just to love return. It's just too low and below in a return. Fino all'ultima goccia, perché è una tradizione della nostra radio. Un giornalista ha scritto questo basso sinuoso, ma a volte percussivo, e la voce di Claudia che si fonde perfettamente con queste sonorità. Un giornalista ha scritto bene, secondo me, è una bella intuizione, c'è poco da fare. Questo è un pezzo notturno, non è proprio notte, sono le 20, 21 e 28, però è serale, questo sì. Pezzo d'atmosfera. L'atmosfera, molto atmosfera. Claudia è molto brava a fondere l'atmosfera, ad entrare proprio magnificamente nelle note tue. Gli fai proprio una strada, gli apri e lei si percorre questa strada senza nessun problema. A me pare così, cosa dici? No, assolutamente, insomma, l'emozione era evidente, no? Nell'interpretazione che è stata fatta, insomma, di un brano, e non ha fatto altro che confermare quello che si diceva prima, quindi che non è la quantità di strumenti, no, che fa esattamente la trasmissione della sensazione del brano che stai avendo, è proprio la capacità di interpretarlo, e secondo me giustamente lo senti tanto più quando hai pochissimi strumenti a disposizione, e in questo caso, insomma, basso e voce, se n'è andata una piena dimostrazione. Certamente, poi quella finale che hai giocato, sei ritornato leggermente al tuo grande amore, il jazz, secondo me alla fine, proprio c'è quello lì input, giustamente per valorizzare, per chiudere il cerchio del pezzo. Era così, Tony? Sì, era... No, io l'ho sentito così, sai, perché la cosa, sentire da vivo i pezzi è un'altra cosa, è un'altra dimensione, anche se non è notte fonda o un locale fumoso come si usava una volta, o un locale... caratteristico di un club, ma può essere un club anche questo stasera, certo. C'è poco da fare. Infatti, assolutamente. Abbiamo suonato come se fossimo in un club. Chiaramente. E non chiedermi che cosa ho fatto, nel senso che la prossima volta lo suono diverso. cioè, tu sei spontaneo, quello che ti viene in mente fai? Sì, assolutamente. Cioè, ovviamente seguendo la struttura del brano, certo. Ma ci sono alcune cose che di solito faccio, ma... Non so che finale ho fatto, che introduzione ho fatto, non ho più pallida di idea. Cioè, la prossima che fai la fai diversa allora. Assolutamente, sì, se volete risuoniamo. Hai detto una cosa giusta, Vannuccio, cosa ne pensi? Anche di solito i musicisti rock di un certo livello non hanno mai una scaletta prefissata. I musicisti di un rock di un certo livello vengono accompagnati da altri, Dylan in primis, non dice mai ai suoi compagni di avventura che cosa fa. Non lo dice mai, certo. Assolutamente mai. Però chiaramente quelli che accompagnano Dila si sa chi sono. Ho esperienza nel senso che mi hanno raccontato anche di Frank Zappa, che quando faceva la tournée diceva ascoltami i miei dischi e poi e vai. Non so cosa chiederò quella sera. ma molto probabilmente giustamente quello che diceva Tony prima, no? Entri in simbiosi con l'ambiente in cui sei e in qualche maniera è un'altra parte del talento artistico, no? Certo. Quella di essere recettivi in quello che si sente, nell'atmosfera che si crea, e di converso poi restituirla in qualche maniera, o comunque indirizzare anche l'atmosfera di un locale o di un pubblico che sia davanti, insomma. Ma ritorna anche, però Claudia è brava perché ricepisce immediatamente le cose che fa Tony, immediatamente, cioè basta un secondo e via. La simbiosi, Fra non, artisti, è facile, no? Non è facile, non è facile, no? Assolutamente, se viene cambiata ogni sera la simbiosi, devi ricostituirla. No, ma effettivamente come posso dire, il lavorare insieme porta effettivamente a questo, dopo a una comunanza anche del piacere di quello che stai facendo e di una condivisione, come dicevano prima, dei brani, eccetera. Quindi queste sensazioni, come posso dire, divise fra di loro, che effettivamente abbiamo sentito, insomma, che tipo di frutti danno. Al di là del CD, che poi il CD, sai, è facile, uno dice ma in studio si può fare di tutto. Beh, insomma, qualche prova l'abbiamo appena avuta, qualche altra l'avremo dopo, che insomma non è che in studio si faccia tutto questo. E come c'è stato in studio? Come è nato questo CD in studio, Tony? È nato che, siccome era già un anno e mezzo che suonavamo, ho detto a Claudio: beh, andiamo in studio, vedrai che in due giorni lo facciamo. Sì, no, non è vero? Sì. No. E invece ci aveva messo 3 mesi. Esatto. Sì, sì, è quello che si diceva prima, sì. Di Tony, no? È quello che si diceva prima di Tony, sai. Perfezionista. Un perfezionista, sì, ma dimmi. Perché tu non conosci la Claudia? Non ho mai lavorato, ecco, direttamente con lei, quindi non posso dirlo. Perché lei dice, no, va benissimo, però... Sì. E quel però lì apre il mondo. È una cosa incondizionale, sempre, no? Insomma, l'importante è che dopo, insomma, il risultato ci sia stato strepitoso. Indubbiamente il risultato è ottimo, quindi c'è poco da fare. Volevamo anche ringraziare il fonico, certo, il nostro tecnico dello studio, si chiama Gabriele Turra, e anche il suo assistente, che spesso ci segue nei concerti, che è Stefano Pericinotto. Perché hanno fatto un lavoro incredibile. Perché il fonico è fondamentale in un disco come questo. Sì. Cosa dice Vannuccio? Eh beh, bisogna, se non hai un, se bravo, non hai un fonico bravo, fonico che riesce a recepire le sfumature, puoi buttare tutto. Anche perché qua non c'è l'orchestra, allora se anche uno strumento non è registrato benissimo nell'insieme. Qua c'è uno strumento e una voce. Se la voce non ha un bel suono di registrazione e il basso non ha un bel suono, ma non solo, ti basta anche avere una corda che vibra, certo. A quel punto butti il brano, questo è chiaro. Sembra poco, ma nella sobrietà certi difetti emergerebbero subito. Vi porto un saluto da Francesco, dalla provincia di Venezia, che vi sta ascoltando e vi fa i complimenti. Grazie. Ciao. E cosa inventi adesso? No, non ce lo dire, va bene, fai qualcosa. Sì, sì. Sei già pronto? Quando tu sei pronto, dimmelo. Allora, ok. Down and troubled, and you need a helping hand. Nothing, oh, nothing is going right. Just close your eyes and think of me, and soon will be there to brighten up even your darkest nights. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yes, I'll be there. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old cool north wind begin to blow, just keep your head together and come on. And soon we'll be knocking on your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. winter, spring, summer or fall. All you have to do is call and I'll be there, yeah, yeah, yes, I'll be there. It ain't good to know that you got a friend. People can be so cold, touch you and desert you. But they take your soul if you let them, yeah. So don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Spring, summer or fall, all you have to do is call and I'll be there, yeah, yeah, yes, I'll be there. You've got a friend, you've got a friend, and good to know you got a friend, and good to know, hey, and good to know. You've got a friend, you've got a friend, and got to know you've got a friend, and got to know, hey, and good to know you've got a friend, you've got a friend. Credo che Carole King sia contenta. Ovviamente, un omaggio a Carole King. Anche a James Taylor, via. Anche a James Taylor, sì, esattamente. Anche se chiaramente il pezzo è stato scritto da Carole King, poi è stato portato al successo mondiale a James Taylor. Bellissimo pezzo, un'atmosfera incantevole. E veramente questo c'è il basso proprio delicato, l'hai proprio appena appena accennato, appena appena toccato. E poi chiaramente Claudio alla voce entrava, si fondeva con questo pezzo sublime di Carole King, che è stata la prima, Vanuccio tu mi insegni, è stata la prima a sdoganare il mercato delle rockstar al femminile con Tapestry in America. Sì, forse non la prima prima, forse direi c'era Grace Slick di Jefferson. Esatto, però come musicista solista, voglio dire, forse fra Johnny Mitchell e lei. Johnny Mitchell e Janis Joplin. Esattamente, sono tre grandi musicisti, esatto, americani. E Tapestry è un disco che ha venduto un sacco, e grazie anche a questo singolo favoloso, non c'è poco da fare. E beh, la signora King è ancora ben lungi da aver finito la carriera. Insomma. Come mai l'idea bellissima di scegliere questo divino pezzo di Carole King? Mettiti vicino al microfono, Claudio. Ma tra tanti brani che non c'è stato un motivo in particolare, in realtà ci piaceva e per cui abbiamo deciso di farlo di prima acchito immediatamente. Sì. Dai, sai, la cosa curiosa che mi domandavo è che, visto che ho qui Claudia, posso chiederlo direttamente: tantissimi dei brani che lei interpreta non era neppure nata quando uscirono e quando sono, certo, stati scritti. Beata lei, lo diciamo tre volte per scaramanzia. E la cosa che appunto volevo chiederle è come mai lei sia un po', tra virgolette, acculturata su quella che era la musica dei nostri tempi. Anche perché, insomma, vedo sempre più spesso che la maggior parte dei nuovi artisti, chiamiamoli così, o almeno sedicenti nuovi artisti, non vanno più indietro degli anni 90. Vero, come cultura musicale. Hai ragione. Quindi diventa anche interessante, ecco Claudia, li hai ascoltati tutti, li ha fatti ascoltare qualcuno? No, certi me li ha fatti ascoltare lui, certi li conoscevo già, comunque sì, molti li conoscevo, ma sì. Sì, mettiti davanti, ok? Ma sì, rispetto alla musica che ascoltano, diciamo, i giovani di oggi, no? Li trovavo molto più interessanti e comunque anche per l'atmosfera, non lo so, mi trovo più vicina Benissimo, questa è una bella risposta. Ecco, io non voglio togliere niente alla musica degli anni no. 90, 2000, no. eccetera. Ci sono cose bellissime anche in quest'anno, però giustamente forse noi li abbiamo anche vissuti molto di più, quindi sì. diventava interessante sapere il punto di vista di Claudia su queste cose. Effettivamente, dico compositivamente, c'è una netta differenza fra tutto quello che successe prima dell'85 e quello che vede dopo. Effettivamente siamo su due pianeti diversi e si sente, insomma, cioè lo senti soprattutto, sai, quando hai l'occasione di viverle in questo modo, queste canzoni, cioè vivono da sole senza la strumentazione, sì, senza esatto. la batteria, senza la chitarra, senza l'assolo, no? Esatto. Riescono a esserci proprio perché sono costruite fin dalle note scritte sullo spartito, sono belle. Chiaramente, sì, sono costruite, cioè non ci sono problemi ad eseguirli in qualsiasi momento, in qualsiasi dimensione, perché sono sempre al top. Mentre, come giustamente diceva Vannuccio, certi pezzi degli anni un po' dopo, anche se sono i pezzi meravigliosi, non sono al top, perdono, allora ci devono giocare con gli effetti, devi giocare con le sovrastrutture, che non è più il pezzo, quello vero. Perché quello vostro non sono delle cover, riprendo dei pezzi e li ricostruite, secondo me, non sono delle cover vere e proprie, una riproposizione a vostro piacimento, a vostro umore del pezzo, che è diverso da una cover, secondo me. Io la penso così. Bisogna intendersi su cosa si intende cover, perché ci sono quelli che intendono per cover la riproposizione esatta, identica, della versione originale del pezzo. E quello, a parte che non potremmo farlo perché non abbiamo la strumentazione, ma è l'opposto di quello che ci interessa. Il brano deve piacerci, ma è il pretesto per suonare, ed è questa la parte, diciamo, jazzistica del nostro duo, cioè non il fatto che suoniamo gli standard di jazz, qualcuno lo facciamo, ma è il fatto che noi interpretiamo liberamente. Quello è importante, sì, hai detto una cosa giusta, liberamente. Ma sai, c'è un pizzico di furbizia in questa, secondo me, magari ingenuamente non salta fuori di primo acchito, però secondo me è anche intelligente come mossa, perché lavorare su un certo tipo di cover ti permette di già conquistarti una simpatia su quello che fai. Come posso dire, dai qualcosa che è comunque conosciuto e quindi hai già rotto il ghiaccio, diciamo, ma lo dai in una maniera molto particolare, quindi prorompi con un'originalità tua. Ecco. Sì, ho capito, è chiarissimo questo concetto, che è giusto, perfetto. Agostino, cosa dici? Io aspetto sempre l'improvvisata, capisci? Hai letto sulle sue biografie che loro hanno suonato con grande musica di gospel? Sì, ho letto prima quando... Stavamo preparando, sì, esattamente. Le la pronuncia esatta di com'è? Nagai. Nagai. Non la conosco, onestamente. Dai, avete fatto un progetto che... Cosa suonavate con Nagai? In quel caso c'era una scaletta. Sì, no, ma che tipo di gospel facevate? Beh, in realtà facciamo dei brani... moderni? Alcuni dei brani nostri, cioè della nostra scaletta in cui lui si inseriva, oppure alcuni brani che ha proposto lui, ma non necessariamente gospel, e li abbiamo rivisti in una versione in tre, con due cantanti e col basso. A tal proposito volevo anche, così ci facciamo una piccola pubblicità, tornerà in maggio e abbiamo già due concerti già fissati, ne stiamo fissando altri con lui. Dove li fate? Ne abbiamo uno a Bologna. E uno ce l'abbiamo vicino a Bassano, a Cartigliano, in un jazz club che si chiama Rive. Comunque nel nostro sito, se possiamo, che si chiama ovviamente a bassa voce .it, ci sono tutte le nostre date, insomma, quindi c'è, perché... Sai già la scaletta da fare con questo artista? No. Ma ci sentiamo, citerai, dirai la scaletta all'artista oppure no? Sì, anche perché è lui che dice. Sì. Ah, ok. Questo. No, comunque c'è sempre il nostro margine di improvvisazione, perché di solito facciamo alcuni brani io e lei, sì. Poi esce lui, okay. E quindi nella prima parte ci sfoghiamo per tutto quello che poi non potremmo fare nell'arco. E con Frank Vignola è la stessa cosa? Con Frank avevamo stabilito diciamo chi è Frank intanto Vignola, con grande... Frank Vignola è un meraviglioso, una meravigliosa persona. E poi perché poi quando è finita la serata ho una foto in cui lui sta girando una pentola di spezzatino e siamo lì che facciamo la foto insieme, ed è un grandissimo chitarrista finger picking, sì, americano. E abbiamo fatto un concerto ad Asiago l'anno scorso in cui abbiamo suonato un po' noi, un po' lui, e poi abbiamo fatto assieme un po' di brani assieme, sì. È un'ottima esperienza, meravigliosa. E anche lui mi ha fatto uno scherzo, cioè? Perché poi ovviamente chi la fa l'aspetti, no? E a un certo punto avevamo finito e lui fa: dove vai adesso, vieni qua e suoni qualcosa che io non avevo programmato. Ho detto boh, adesso cosa faccio, insomma, poi ci siamo salvati. Comunque è stato un momento un po' particolare, divertente, il pubblico rideva, io non molto. Io ne approfitto per aprire una piccola parentesi, già che parlavamo del vostro sito. Sì. Per qualcuno, se volesse acquistare fisicamente il disco, come oltre a venire nei vostri concerti, c'è la possibilità, collegandovi appunto nel sito o contattandovi in qualche maniera, la mail, che ne so, qualcosa? Sì. Allora, ci sono diverse possibilità. Intanto può contattare Vannuccio, certo, che ovviamente è il nostro produttore e che ha anche la lista eventualmente dei negozi nei quali sono stati distribuiti i nostri CD, oppure può scriverci, poi dopo lo indirizziamo dove è più comodo, insomma. Si trovano in tutti i locali, in tutti i negozi vanno sui dischi? Beh, non posso dire in tutti i negozi, ormai ci insomma sono, c'è una buona distribuzione, questo volevo dire. Per cui, insomma, ma sai, io non sono neanche, sì, è stato anche ben distribuito come disco, però nel momento in cui uno fa anche una ricerca su Google sicuramente troverà un posto dove acquistarlo, no? non c'è problema, se no può rivolgersi appunto direttamente al nostro sito, che è www.gtmusic.it, oppure nel sito appunto www.abassavoce.it. Perfetto. E oltre a questa collaborazione con questa Nagai, avete altri concerti in previsione prossimamente? Beh, sì, sicuramente abbiamo già fissato alcuni concerti, arriviamo già ad ottobre come concerti fissati. E stiamo programmando alcuni, insomma, ecco. Avete suonato moltissimo in ogni caso. Sì, adesso stiamo cercando un po' di suonare un po' meno, non un po' meno nel senso che non vogliamo, ma sì, andiamo un po' alla ricerca di delle location più ideali, più adatte. Chiamandoci a bassa voce e suonando a bassa voce, non possiamo proporci in posti dove la voce del pubblico oppure il tipo di locale sovrasta la nostra musica, perché non è una guerra persa. Certo, certo. Non possiamo aumentare il volume o dire al batterista suona più forte, perché non ce l'abbiamo. Certo, certo. E che sono rari comunque i locali, bisogna proprio andare a cercarli bene, perché tutti mangiano il panino, bevono una birra e parlano ad alta voce, quindi il cantante spesso e volentieri non si sente. Però noi qui lo sentiamo benissimo. Come no? Non diciamo niente, lui è già pronto e Claudia anche. Vero Claudia che sei pronta? Tu dimmi di sì. Ok. Blue Radio. Sì, vi facciamo un piccolo medley. Una delle nostre cose divertenti nelle nostre serate è fare dei medley. Posso parlare oppure devo... No, va bene, certo, posso parlare. Bene. Non c'è nessun divieto. Ovviamente non sono medley preparati, cioè un brano, poi finito quello ne attacchiamo subito un altro. Okay. Questo che facciamo sentire adesso è fisso, diciamo, sempre quello che abbiamo anche nel CD. Sì. È un medley degli anni 30 di musica italiana. Perfetto. Tanto per restare alla musica moderna, attualissima, no? Degli anni 2000. Baciami piccina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità, para para para para papà. Bimba birichina, tu sei tanto deliziosa, ciò che ti interessa, che cos'è? Per Pia ba pio bu cara sillaba con me. Pia be pio bu, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. Pa pa, baciami piccina sulla bo bo bocca piccolina, dammi tan tan tanti baci in quantità. Para para para para pa pa. Pia ba pia bu, cara sillaba con me. Pia be pia bu, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. Pa pa, baciami piccina sulla bo bo bocca piccolina, dammi tan tan tanti baci in quantità. Para para para para pa pa. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa male, tanto male, ai. Batto il piede in giù, lo batto in su, giro, mi rigiro, sembro Belzebù. Conto le stelle ad una, ai, cerco sorridere alla luna, ai. Provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre male. Piano piano devo camminare, faccio un passo e mi devo fermare. Sono proprio sfortunata, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sta qui. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa male, tanto male, ai. Batto il piede in giù, lo batto in su, giro, mi rigiro, sembro Belzebù. Piano piano devo camminare, faccio un passo e mi devo fermare. Sono proprio sfortunata, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sta qui. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa male, tanto male, ai. Batto il piede in giù, lo batto in su, giro, mi rigiro, sembro Belzebù. Maramà, perché sei morto? Pane e vino non ti mancavano, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le amicine innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non ritorni più. Maramà, maramà, fanno i mici in coro. Maramà, maramà, maramà, maramà, maramà, maramà, maramà, perché sei morto? Pane e vino non ti mancavano, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. E una casa avevi tu. E una casa avevi tu. Bravissima, bravissimi tutti e due, chiaramente. Bravi, vai. Un applauso ci vuole, ci vuole, dovuto, ci vuole. È dovuto. No, è proprio delizioso, sì. No? Sono queste, queste piccole cose che, sai, certe volte le teniamo un po' nascoste, come fossero vergognose, invece vedi come... Poi la cosa che lascia di più è che sembrano semplici. Ma quando le senti così, no? Non è per niente, vero? Non è per niente, assolutamente. Poi maramai che sei morto non è per niente semplice, è assolutamente complicata, mi pare. Sì, però mi diverte. Ah, ti diverte, sì. Ti diverte, ma è molto complicata. E c'è un grande... c'è un ritorno, qualche volta si sente... c'è un ritorno a queste cose. Perché lo swing italiano, tu dici, non c'è quello americano, ma c'è anche il foxtrot, no? Ecco, esattamente. Sono anche i ricorsi, sì, della storia, no? Certo. Ogni tanto succede. No, quello che era interessante da sottolineare era proprio come loro riescano a dare uno smalto veramente di novità queste cose. Poi Claudia è molto brava, perché la senti veramente che è appoggiata sulla musica che Tony le costruisce, quindi qualsiasi cosa viene fuori con una facilità esatto, metto una cosa giusta, fin dei conti penso facciano una grossa invidia come artisti. Hai ragione, perfetto. Non c'è difficoltà, c'è piacevolezza, c'è volontà, c'è gioia nel cantare dei pezzi, divertimento, penso sia la roba fondamentale. Uno si deve divertire, chiaramente deve dare un messaggio a chi ascolta, però prima si deve divertire lui, perché se non si diverte diventa una cosa un po' forzata. Cosa dici, Tony? Ah beh, assolutamente, se non comunichi quello che hai. Quindi se non ti diverti, comunichi che non ti stai divertendo, il pubblico lo percepisce. Immediatamente, quindi è buco, assolutamente. Ma una delle cose, per esempio per noi, è il, quando andiamo a suonare, è l'attesa prima che arrivi l'orario, perché delle volte diciamo non possiamo mica cominciare, perché per noi la parte più noiosa è l'aspettare l'orario, giusto. Cioè, ma veramente anche delle volte noi andiamo avanti, sabato abbiamo fatto 2 ore e 40 di fila senza pausa, eravamo anche stanchi alla fine, però cioè ci divertiamo, quindi non è pesante, cioè c'è la stanchezza dopo un certo momento, però ci divertiamo. La fisicità nel suonare, nel cantare è inevitabile, quindi certo. È ovvio che il corpo stesso ha uno suo sforzo, ovviamente lo spirito lo tiene su, no? Fino alla fine, giustamente. Decisamente, sì, beh, si è visto qua, si sta sentendo. Cioè, noi abbiamo le telecamere, però io ho visto proprio quel momento di... Vi siete messi d'accordo? Un secondo, vi siete messi d'accordo? Hai detto solamente sì, facciamo qualcosa, e poi lei ha capito immediatamente e via, senza nessun problema. Anche se tu sei il dealer della situazione, perché non dici mai le scalette praticamente in questo momento. La settimana scorsa avevamo stabilito una scaletta di 3 brani. Sì. Non questi che ho suonato adesso, un'altra serie di brani sul periodo anni 70 circa. Cosa? Americano. Un brano di James Taylor, un brano di quello della colonna sonora di quello di Kate Carradine. I Am Easy, grazie, me lo fai un secondo. Me lo fai bene, per piacere. Agostino, io devo sempre rompere le scalette. I Am Easy è una cosa meravigliosa, io ho una certa età. L'importante è fare musica bella. Assolutamente bella, qui si fa musica bella. Insomma, questo è un pezzo storico. I Am Easy, sì. E poi ne facevamo un altro che era un brano di Terence Trent D'Arby. Che nel disco nel quello. Disco, sì. Sai Your Name. Sì. In realtà io durante la... siamo partiti, poi io il terzo brano sono partito con un altro brano. Sì. E poi a fine serata ho detto a Claudia, ma non abbiamo suonato quel brano, come mai? Così, cioè... L'estro del momento, no? Sì, prendi il sopravvento, fa anche rima. Quei 2 brani che dovevamo suonare erano tutti e 2 nella stessa tonalità, io ho detto, dovrebbe essere questo, invece era l'altro, lei comunque ha capito che avevo sbagliato, ma... Posso chiederti una cosa, Tony? Suonate in un locale, in un club, se la gente del locale chiede, vorrei sentire da voi tot pezzo, voi lo fate oppure no? Noi abbiamo 75, quindi non ci sono problemi di sorta. No, se fa parte di la parte della scaletta, chiaramente. Sì, la scaletta dei 75 pezzi, esatto. Allora facciamo qualcosa. Facciamo questa emisione. Tutto live, 22 esatte, sono tutto live, tutto da. Vi ricordo che questo è sempre Blue Radio Veneto, lo dico a voce, cioè che mentre il jingle è Blue Radio Veneto. Sì, sono messi d'accordo con Kate Carradine. Sì. Allora, Blue Radio Veneto, ve lo ricordo, questa è la vostra emittente, con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavalla, con Vannuccio Zanella, che è il produttore di questo duo, che si chiamano A Bassa Voce, stanno proponendo le loro canzoni, queste cover, queste rivisitazioni in chiave acustica di tanti grandi successi. Questo è I'm Easy. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping, staring, I can see the faces, only the shadow of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. I'm going where the weather's at my clothes. I'm backing out of the northeast wind, sitting on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Thank you. sorry, it is much too late to turn away. We started as a friend, sang your name across my heart. I want you to be my baby. Sang your name across my heart. I want you to be my lady. Time show will bring his appointments in so many things. It seems to be the way when you're gambling cards, love you play. I'd rather be in here with your baby than in cooler than. It seems to be the way. Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Sign your name across my heart. I want you to be my lady. Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Sign your name across my heart. I want you to be my lady. Sì, ha fatto, avete fatto un medley decisamente bello. Interessante, non era previsto. No, non era previsto. Sì, beh, a me è piaciuto in ogni caso. È venuto fuori molto bene. Cioè, la cosa bella del, tra virgolette, lavoro che stanno facendo anche loro è che è quasi didattico quello che fanno. Per loro, addirittura. Sì, ma sai perché, Tony? Perché devi insegnare a destrutturare una canzone. Cioè, se tu vuoi ricreare una canzone che abbiamo sentito nei dischi, che abbiamo sentito, appunto come si diceva prima, arrangiata di tutto punto, strumentata, eccetera, per ricrearla per basso e voce devi prima destrutturarla alle minime sequenze, dopodiché la ricostruisci, ed ecco che diventa didattica perché insegni come è stata fatta la canzone. Esatto, questa è una cosa giusta. Sì. L'avete praticamente spogliata di tutto e dopo l'avete ripresa a modo vostro, semplice. Qui è semplicissima, chiaramente, voce, chitarra basso, chiaramente, però, e non elettrico e acustico, chiaramente. Sì. Però tieni appunto conto, la didattica è diventata cosa? Far vedere il parallelo che c'è fra una canzone di Keith Carradine e una canzone che è uscita 20 anni dopo, però ha la stessa metrica musicale. Per cui ti insegna che alcune regole musicali esistono, certo, e vengono messe in luce in questo modo. Dimmi, Tony. C'è una cosa anche, no, che è importante, che un brano è bello, sì, quando suonato con la chitarra e voce, o piano e voce, dipende da chi lo suona. Certo. Sta in piedi. Esatto. Esatto, hai detto una cosa giusta. Allora, molte volte alcuni brani non possiamo farli, non perché sono tecnicamente difficili, ma perché non reggono. Esatto. Perché hanno bisogno di tutte quelle sovrastrutture che dicevate voi, di arrangiamenti, perché sennò se tu le spogli, c'è niente. Una mia curiosità personale, forse anche di Agostino, fra i 75, qual è stato il pezzo che ti ha più messo in difficoltà, Tony e Claudia? Nell'approccio, ti ha messo più in difficoltà? Chiaramente l'avete spogliato, l'avete ripreso, però ti ha messo in difficoltà? Era un pezzo difficile, nel senso vero proprio del termine. Non c'è stato nessuna difficoltà. No, ce ne sono stati probabilmente. Poi magari per me alcuni, per lei... Perché Claudia altri, chiaramente. Per esempio... adesso è un po' che non la suoniamo, facevamo Birdland dei Weather Report. Ah, però non è mica un pezzo semplice. Non è un pezzo semplice. Decisamente. Ma il problema di quel brano non era tanto suonarlo, ma per avere... ci sono alcune problematiche dello strumento che... alcuni brani posso cambiare tranquillamente tonalità per andare incontro alla sua... Quindi il 90% dei brani non sono nella tonalità originale, ma sono quella che va più comoda a lei. Delle volte riesco, insomma, cerco di riuscire a farla rendere. Birdland è un brano che richiedeva, adesso non sto qua a spiegare dettagli tecnici, ma un musicista capisce cosa vuol dire quando parlo di corde vuote, che devono continuare a risuonare, che non mi permetteva un cambio di tonalità. Uh-huh. E però la tonalità di Birdland credo che sia troppo alta. No, era abbastanza altina, sì, un po' altina. Era troppo alta per te. E quindi o perdeva l'effetto del basso o perde l'effetto della voce, quindi sono dei problemi che... oppure dovrei avere un altro basso accordato in una tonalità diversa. Beh, questo sarebbe diventato poi difficile anche utilizzarlo dal vivo, perché certo, riaccordature certo, complete fanno perdere un po' certo, il ritmo del concerto, no? Agostino ha fatto una didattica anche adesso, ha spiegato in modo semplice un pezzo difficilissimo di Guadalupe Report. Suonai Guadalupe Report, io jazz, cioè la musica di Guadalupe Report è una musica un po' particolare, anche se io amo disceratamente Sing the Body Electric, è l'album più rock di Guadalupe Report. Poi sono in altri sentieri molto lontani, però insomma. Io posso fare una richiesta? Vai. C'è una canzone in questo disco che mi ha preso particolarmente, che ho ascoltato ancora qualche tempo fa, e siccome io lo amo perché ha attraversato la mia vita sia radiofonica che anche personale, è scomparso un paio d'anni fa Michael Jackson, c'è una canzone che avete fatto dentro qui che è una delle canzoni ballate più famose al mondo. Sì. La posso richiedere? Certo. Certo. Non ti dico il titolo perché tanto... Allora, vi ricordo che questa è Blu Radio Veneto, tanto finché loro si preparano, ovviamente. Claudia sta tirando fuori giustamente il testo. Ci sono tre brani che lei non canta a memoria. Ah, uno è questo? Non riesco tu. Questo non mi interessa. Allora, dicevo, questa è Blu Radio Veneto, vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms 346 23 20 033. Ancora circa una ventina di minuti con gli a bassa voce, dopo di noi ci sarà appunto Alberto Prisco con la classifica della sua musica rock. Adesso però c'è Michael Jackson versione femminile in versione acustica. She was more like a beauty queen from movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who we dance on the floor and around. She said, I am the one who we dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean, as it calls to sing. Then every year done with eyes a dream, being the one who dance on the floor. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful what you love, and be careful what you do, 'cause the light becomes a through, yeah. Billie Jean is not my lover, she's just a girl, claims that I'm the one. But the kid is not my son, she said I'm the one. But the kid is not my son. For 40 days and for 40 nights was on her side, more can stand when she's in the man. Her schemes and plans, 'cause we dance on the floor and around. So take my strong advice, remember to always think twice. She told my baby we dance in three, then she looked at me, then showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine, 'cause we dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood up by me, then a smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Hey, Billie Jean is not my lover, she's just a girl, claims that I'm the one. But the kid is not my son, she said I'm the one. But the kid is not not my lover. She's just a girl, claims I'm the one. But the kid is not my son. She says I'm the one, but the kid is not my son. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Hai capito, Maurizio? E poi Michael Jackson usava tantissimo il giro di basso, quindi basso era fondamentale. Questa è stata facile da fare, scommetto. Questa è stata la più difficile. Ecco, perché... ecco, perfetto. Questa è la più difficile perché devo fare contemporaneamente la parte di basso, che è un ostinato. Esatto. La batteria. Ah, vero. E la parte armonica. E quindi devo fare tre cose contemporaneamente. Ti ho fatto sudare, insomma, stasera. No. Però è stata quella che ho dovuto studiare di più. Ah, ecco. Nel disco non suoni questo strumento, cioè questo strumento specifico di stasera, suoni un altro basso. Sì, comunque sono tutti e due dei bassi a sei corde. Che hanno una funzione, però sono, come tu hai detto, sono una sonorità di chitarra e nello stesso tempo di basso senza tasti. Sì, diciamo, perché ha una corda un po' più ampia. Allora, diciamo che ha una corda più acuta rispetto al basso normale, quindi mi permette di avvicinarmi al suono della chitarra e ho una corda più bassa, la quinta corda del basso a cinque corde, e questo quindi mi permette di ampliare di più la gamma. Non ho il suono della chitarra, ma è una... La giusta combinazione. Sì. È un buon compromesso. Poi certo. C'ho questo che appunto è un basso appena fatto da pochissimo, è un prototipo che sto usando da pochi mesi ed è completamente acustico, ha la cassa acustica. È stato un prototipo su tua indicazione? Sì, ovviamente. Ovviamente. Tutti i miei bassi, di solito ho sempre avuto dei bassi Manne da 20 anni che lavoro con lui, e ogni volta gli dico fammi un basso di quel tipo e lui mi dice tu sei pazzo. Dopo invece in realtà funziona, lo fa e poi dopo ne vende altri, no? Perché poi ho capito. Il primo 6 corde fretless di Manne l'ha fatto per me, per il disco che abbiamo fatto insieme, e poi ne ha fatti decine. Il primo 6 corde acustico l'ha fatto per me e ancora adesso ho un suo basso acustico 6 corde e poi ho questo. Ottimo, sì, è una cosa molto interessante. Questo è un Canova, è la prima volta che fa un basso, perché lui costruisce solo chitarre. Ho capito. E quindi l'ho messo subito alla prova, ho detto, adesso vediamo. Poi mi pare di aver letto che recentemente hai suonato con un trombettista in giro, o no? Trombettista tedesco? Con Marco Stockhausen. Esattamente. Che idea, che situazione c'è stata? È totale improvvisazione. Ah, ok. Lui è il figlio di Karl-Heinz Stockhausen. Enorme personaggio, sa qualcosa Battiato. Esatto. Esattamente. Uno dei più importanti compositori del Novecento. Lui è il figlio, e suona la tromba, compone benissimo. L'abbiamo invitato a Schio a fare un concerto. Tu sei il direttore del conservatorio. Abbiamo una scuola di musica dove siamo in tre che gestiamo la scuola. La scuola di Schio, esattamente. E torna il 22 di aprile. Suonerà ancora con noi. Quindi improvvisazione assoluta. Assolutamente. Bellissimo. Gli ho chiesto se portava giù qualche spartito. Ha detto no, non c'è problema. Aveva tutto qua. No, ma non solo. Lui parte e noi dobbiamo capire cosa fa e di conseguenza adattarci. E di te al basso, lui al tromba e poi? In quel caso c'era un pianoforte, un clarinetto contrabbasso, un flauto, un paio di sassofoni. Mm-hmm. E mi sembra basta. Adesso questa volta abbiamo anche il pianoforte. Ah, però sì, così. No, dai, poi soprattutto quando si tratta di improvvisazione, non è mica semplice. No, lui dà delle indicazioni. Lui dà delle indicazioni e in base alle indicazioni che dà, noi ci adattiamo, insomma. Oppure lui si adatta a noi e quello che sta succedendo. Certo, molto bello. E nell'ambito, sì, io parlo del jazz in chiave più ampia, jazz ha questa attinenza, giustamente, questa l'idea di suonare assieme, non c'è divisione, di suonare assieme, il suono assieme è la cosa fondamentale. Sì. E secondo me il termine jazz indica l'improvvisazione. Esattamente, sì. Se non c'è una parte di improvvisazione, se tu fai anche degli standard di jazz, ma li impari a memoria e non improvvisi, ma risuoni un tema o un'improvvisazione, quella che sembra un'improvvisazione, ma è sempre quella, secondo me non è jazz. Ho capito. È più jazz, voglio dire, anche il Michael Jackson improvvisato che non uno standard fatto, trascritto tutto. Mm-hmm. Deve esserci lo... Manca l'anima. L'anima, il jazz è una fotografia. Anche un nostro concerto a bassa voce non è riproducibile la volta dopo, facendo le cose diverse e le parti sono diverse. È una fotografia, mentre l'altra musica è un dipinto, cioè messo giù con calma, con tutti i colori scelti. La fotografia può venire mossa, può venire bella, può venire scura, però becca quel momento lì che non si ripeterà più. Bella metafora. No, vero? bello, sì, si è capito benissimo che cosa vuol dire suonare, portare avanti un discorso musicale, senza nessuna pressione, assolutamente autonomo al 100%. Ok, cosa dici? Un altro pezzo, dai. Sì, no, perché sono le 22:20, Alberto è già arrivato. Alberto, sì. Facciamo una canzone e poi ci salutiamo. Ok. Cosa ci fate ascoltare? Non importa, cosa che suona. No, quello che volete, quello che volete, assolutamente. È tutto pronto. Ah, sì, ok, vi facciamo sentire. Adesso ce lo dici? No, hai un dubbio? Abbiamo un dubbio. Facciamo... Tira la monetina. Quella originale o Over the Rainbow? Non lo sa. Allora vi facciamo Over the Rainbow. Potete fare tutti e due messi assieme? Sì. Ok, certamente. No, ne facciamo una e poi salutiamo Maurizio. Ah sì, okay. Giusto. Perché mancano 10 minuti. Ah, ok. Ok. Non so. Fai più. Quello che vuoi tu, va bene? Il mago di Oz. Facciamo il mago di Oz, dai. Ok. È il brano che noi di solito concludiamo il concerto ed è forse per noi il brano più bello. Uno dei più belli che siamo mai stati scritti. Allora non poteva che venire a proposito. Esattamente. Thank you. wish upon a star. Wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way up on the chimney tops, that's where you find me. Birds fly you fluttering. Oh, why? Oh, why can't I? Dolcissimo, fino all'ultimo istante. Bellissima, bellissima. Questo è un pezzo, un classico, uno che si sente sempre, che non va mai più di moda. Cosa dici, Tony? Intramontabile. È intramontabile. C'è emozione quando si suona un pezzo simile al finale di un concerto di 2 ore e 50 minuti, come l'altra volta, come sabato, probabilmente sabato. È stato così? Sì, sì. Beh, insomma, mi sembra che abbiamo sentito, no? Dall'infrarosso all'ultravioletto. Esattamente. Abbiamo sentito tutta la parte cromatica dell'arcobaleno, l'hanno fatta veramente risaltare tutta, sia la voce di Claudia che il basso di Tony, effettivamente. E se vuoi riepilogare le prossime date ancora, visto che abbiamo ancora qualche minuto, Tony? Aspetta, sì, io non ho memoria. Allora, possiamo fare così. Dimmi. Andate su www.abbassavoce.it o se volete sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Facebook, che anche lì è abbassavoce.it, e lì trovate sicuramente tutte le nostre date. Stiamo in trattativa per alcune date di marzo ancora, quindi può darsi che siano ancora in aggiornamento, sicuramente. Se avete voglia di passare una serata diversa dal solito, rilassata, tranquilla, con queste meravigliose musiche, con la voce di Claudia e il basso di Tony, quindi vi aspettano, insomma. Certo. Allora, un grazie da parte di Blu Radio Veneto di essere venuti qui questa sera. Grazie a voi. Grazie a voi. Ringraziamo Vannuccio che ce li ha fatti conoscere. Grazie. E di essere venuto qui, ovviamente. Certo, ringraziamo anche Nino Destra, che anche lui ha collaborato. È qui vicino a me. Qui vicino esattamente. D'altronde questo disco, tra l'altro, esce nell'etichetta, diciamo, di Nino. Di Nino, e questo è fondamentale. Per la GT Music. Quindi grazie a Nino, allora. Un grazie a Patrizia per le foto. E ci salutiamo con l'ultima canzone. Certamente. Io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo con Sabrina Zunnui, che verrà a trovarci da Roma, e quindi un altro live. Allora... Tutto a posto? Siete già pronti? Un altro brano? Certo, è la caratteristica nostra. Quindi noi vi salutiamo, vi lasciamo in compagnia per l'ultima canzone di A Bassa Voce, dopodiché ci sarà la musica rock e la classifica con Alberto Brisco. Grazie e in bocca al lupo e buona serata. Grazie. E questo brano, noi questa sera abbiamo trovato nuovi amici, e a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato dedichiamo questo Meet Another Friend, che è un brano inedito fino a quando è uscito il CD. È un brano nuovo, l'unico. Ok. Looking out through the window of pain, chimneys and rooftops, here and miles away. Your stance will see the night. were born for happiness, for peace and blissfulness. I've been looking forward, deep blue big skies, never ending skylines that fill up my eyes. Inside my world is just spinning round, and I see it's on this side of the ground. There is no black and white, just white shades of gray. Sure and in end.